Mix 24, i gialli della storia. La gente ama le favole. Sei pronta? Certo. E lei? Io credo che i personaggi di cui leggiamo finiscano per diventare più reali dell'uomo che ci sta accanto. Allora ho urlato, Jack. Jack, riesci a sentirmi? Jack, ti amo, Jack. Come vorrebbe che fosse ricordato? Dovevano esserci più cavalli, più soldati. Perché fa così, signora Kennedy? Più lacrime, più fotografi. Ci fanno sembrare dei barbari. Che problema hai? Non è tenuta a farlo. Io accompagnerò Jack. Presentò! Da sola, se necessario. Non sono più la First Lady ormai. Il mondo la ricorda per quelle immagini terribili di Dallas, con suo marito che si accascia sulla limousine, lei che si lancia sul portabagagli dell'auto e poi ancora il giuramento del nuovo presidente sull'Air Force One con il suo abito rosa ancora macchiato di sangue. Si chiama Jacqueline Kennedy, è morta a New York il 19 maggio del 94, dopo una vita al tempo stesso avventurosa e tragica, costellata da celebrità, da successo, ma anche da tanto dolore. E noi oggi a Mix24 raccontiamo la sua storia e il suo rapporto con il presidente, ucciso a Dallas il 22 novembre del 63. New York, 24 ottobre 1954. Sembra una giornata come tutte le altre. Eppure in una stanza d'ospedale dove sta lottando tra la vita e la morte, John Kennedy ha appena ricevuto l'estrema unzione. I medici sono stati chiari, le probabilità di farcela sono minime. John Kennedy dunque non sarà mai presidente degli Stati Uniti, né qualcuno di qui a 9 anni potrà ucciderlo a Dallas. Ma in quel giorno di ottobre cosa sanno gli americani di quell'uomo alto, dai capelli indomabili, con quegli occhi verdi che gli mangiano il viso? Cosa sanno di questo milionario disinvolto e seducente, a parte il fatto che ha sposato una splendida donna e che è diventato in un batter d'occhio il più affascinante uomo politico sulla scena? Gli americani sui Kennedy si sono sempre accontentati dei luoghi comuni. Ma a quei luoghi comuni, l'unica a non crederci mai sarà forse solo Jackie. Quando le chiedevano quale fosse stato il giorno più bello della sua vita, Jackie non ha mai risposto: il giorno in cui John è stato eletto presidente. Il più bel giorno della sua vita per lei è quello in cui è diventata madre per la prima volta. Gennaio 1961. Jackie vola a Washington per presenziare all'insediamento del marito. Ma non ha cambiato l'opinione che ha di lui fin dal maggio del 1951, quando si sono conosciuti a casa di un amico comune. Continua a pensare che John emani qualcosa che gli altri non possono vedere, che risveglia in lei un istinto protettivo. L'America appare felice, ha eletto un presidente giovane e in gamba. Ma Jackie non condivide quell'euforia. Lei sa quanto John sia vulnerabile. Sa che soffre continuamente con dolori lancinanti. La colonna vertebrale non lo sostiene più, le gambe cedono. Il morbo di Addison ha indebolito il suo sistema immunitario, mettendo in pericolo la sua vita. Jackie sa con certezza che per tutta la presidenza John avrebbe sofferto, mentre lei avrebbe dovuto tacere sulla sua salute, sui suoi dolori, sui farmaci di cui lei avrebbe gestito le dosi, sulle sue angosce di presidente malato. Nel gennaio 1961 nessuno meglio di lei sa che quell'uomo che sta assumendo la carica suprema è in effetti un infermo semiparalizzato. Washington, Jackie l'ha visitata da giovanissima durante la guerra insieme alla sorella Lee. Erano accompagnate dalla madre, Janet, che dopo la separazione dal loro padre cercava un nuovo marito sulle inserzioni a pagamento. Jackie aveva trovato la National Gallery meravigliosa e la Casa Bianca del presidente Roosevelt sinistra. Jackie ha un gusto spiccato per l'arte e la cultura che non ha certo ereditato dal padre, festaiolo e Don Giovanni. E tuttavia Jackie non rinnegherà mai la sua storia familiare, fiera delle sue origini francesi. Nel 1951 è a Parigi per proseguire gli studi alla Sorbona. Tornata negli Stati Uniti, inizia a collaborare con un quotidiano, il Washington Times Herald, per il quale fotografa tutti i politici dell'epoca, tra questi un giovane senatore del Massachusetts, John Kennedy. Kennedy è il figlio di un potente uomo d'affari, già ambasciatore americano a Londra. Democratico, cattolico, un vero talento per la politica. Ma soprattutto John è uno scapolo dalla vita dissoluta, desiderato dalle donne e libertino. Jackie invece lo trova molto tenero. Come lei, anche John ha vissuto un'infanzia solitaria e malinconica, tra una madre distante e un padre assente. John racconta a Jackie che l'esperienza della malattia l'ha reso fatalista. La vita è breve e dolorosa e non bisogna mai rinunciare ad un piacere che ci si offra. Jackie è lucida, capisce perfettamente che anche da sposato John non rinuncerà mai alle donne. Parlando del suo matrimonio, Jackie non si fa alcuna illusione. Ad un'amica negli anni della Casa Bianca confesserà: sposando John, sapevo che avrei conosciuto delusione e disperazione, ma decisi che sarebbe valso il dolore di vivere quella disperazione. È come una premonizione. Jackie non si aspetta che la sua disperazione venga compensata dall'amore o dall'affetto. Anzi, sa che a quella disperazione si aggiungerà ancora altro dolore. Ma per lei è come se questa sorta di doppio dolore giustificasse il fatto di sposare John. Tutto si può dire, insomma, tranne che abbia deciso di sposare John, senza cognizione di causa. 12 settembre 1953. John e Jackie si sposano nella chiesa di St. Mary a Newport. Tutti i giornali del paese riportano la notizia del loro matrimonio. La chiesa è circondata da una folla di curiosi. Jackie arriva scortata dal patrigno. Suo padre giace ubriaco fradicio nella sua stanza d'albergo. È stato il padre, Joe, a convincere John a sposarsi. Con il cinismo ben pensante tipico dei Kennedy, ha spiegato al figlio che la sua carriera politica gli impone di prendere moglie. Avrà visto Jackie le fotografie scattate da Jacques-Henri Lartigue sulla Costa Azzurra appena 2 settimane prima del matrimonio? E a conoscenza della relazione di John con una giovane svedese a cui, appena fidanzato con Jackie, aveva promesso di sposarla? Ai suoi più intimi amici dice: ecco come si comportano certi uomini, a cominciare da mio padre. Ottobre 1954. Ora John è tutto per lei. Alla vigilia dell'intervento che deve scongiurare una quadriplegia permanente, John legge a Jackie una poesia di Alan Seeger. I have a rendezvous with death. Ho un appuntamento con la morte. E invece almeno quella volta la morte tira dritto. Traumatizzato dall'operazione, invalido, John lascia l'ospedale di New York e la vita politica per iniziare una lunga convalescenza. Mentre si riposa, immobile e muto, a volte quasi in stato comatoso, Jackie diventa i suoi occhi e le sue gambe. Lo tiene in contatto con il mondo, gli tiene la mano, gli compra dei libri, gli legge i giornali. Approfittando di quell'immobilità inaspettata, gli fa scoprire ciò che lei ama di più al mondo, l'arte e la cultura. Di ritorno a Washington, John dice: finalmente ho capito fino a che punto Jackie è diversa da tutte le donne che ho conosciuto fino ad oggi. Jackie invece sa che, nonostante le belle parole, John non ha la minima intenzione di cambiare. Come si sente ad essere tornato? È un'impressione meravigliosa. Ho aspettato questo momento per 7 mesi. Jackie ha abbandonato qualsiasi ambizione professionale e ha smesso di lavorare. John è destinato a diventare presidente e Jackie, consapevole del suo ruolo, ma non senza un po' di amarezza, è disposta ad aiutarlo. A lei, a differenza delle altre donne del clan Kennedy, la politica non interessa. Un giorno John si lamenta con un suo amico. Jackie è formidabile nella vita privata, ma secondo te imparerà cos'è la vita politica? Jackie si gira verso l'amico e aggiunge: John è formidabile nella vita politica, ma secondo te imparerà cos'è la vita privata? Jackie ha ragione. Di rado si vede John accanto alla loro bambina, Caroline, nata il 27 novembre 1957. Anche se ogni tanto recita il ruolo del perfetto padre di famiglia, John Kennedy deve seguire il suo destino. Decine di stati da visitare, centinaia di discorsi da pronunciare, migliaia di mani da stringere. Che cosa si aspetta Jackie dal sostegno costante alle campagne politiche del marito? quale contropartita, quale riconoscimento da parte di John? Beh, probabilmente nessuno. Mentre John va incontro alla folla, lei resta spesso di marmo, nascosta sotto un velo di affascinante noncuranza. Il sorriso enigmatico di una donna che fin dal primo giorno in cui decise di amare Kennedy ha saputo che lui le sarebbe rimasto debitore. Il leader di un'America prospera, per un mondo pacificato per tutta l'umanità, il grande senatore del Massachusetts, John Kennedy! Gli americani si convincono che Kennedy incarni il loro futuro, ma non ne sono mai così convinti come quando Jackie è al suo fianco. I consiglieri di John notano che quando Jackie viaggia con lui, la folla che partecipa ai comizi è il doppio rispetto a quando è solo. Jackie rompe il cliché su cui l'America, per tutti gli anni 40 e 50, ha fabbricato la sua donna ideale. La bionda, dalle forme morbide e le labbra carnose, viene soppiantata da quella donna bruna, alta, senza seno, con una cultura infinitamente superiore a quella dell'americano medio, che non può resistere al suo fascino. Jackie viene presa a modello da migliaia di ammiratrici. Il New York Times scrive: i suoi abiti e il taglio dei capelli erano un capolavoro di semplicità studiata e la sua influenza sulle donne diventò quasi indecente. Insieme John e Jackie sono belli come nessun'altra coppia politica, ma neppure questa complicità mediatica riesce ad avvicinarli. Più si avvicinano le elezioni presidenziali, più John teme che l'eleganza tutta francese di Jackie lo allontani dai suoi elettori. Alla fine John le chiede di farsi da parte e inizia a condurre la campagna da solo, anzi, da scapolo. Non è ancora l'ora di Jackie, non è ancora l'ora in cui sarà indispensabile al presidente per blandire le folle, sedurre un capo di Stato in visita ufficiale, allentare le tensioni di un vertice. Che effetto fa essere la moglie di un candidato? Dipende dal candidato. Io sono molto felice di essere la moglie di John Kennedy. Pensa di avere un ruolo nella campagna di suo marito? Tutte le mogli hanno un ruolo, che è quello di assecondare il marito in ogni occasione e di semplificargli la vita. Prima di sposarsi, Jackie non era mai entrata in una cabina elettorale. Voterà per la prima volta nel novembre del 1960, quando John viene eletto presidente degli Stati Uniti. Quando un giornalista le chiede a quale partito si senta più vicina, Jackie, un po' seria e un po' ironica, risponde: direi che adesso sono democratica. E mostra la copertina di una rivista in cui è ritratto Kennedy. Maggio 1961. È a Parigi, durante la luna di miele della presidenza, che arriva finalmente l'ora di Jackie. Per la prima volta Jackie sente che ha il diritto di vivere non più dietro, bensì accanto a John. La Francia era la sua storia, la sua cultura, insomma, qualcosa di suo. È a Parigi che Jackie capisce di poter eguagliare Madame Récamier, che in persona tutto ciò che lei ama fin dall'adolescenza: la cultura, il buon gusto, l'arte di parlare, di ricevere e di fare salotto. Quel viaggio ufficiale in Francia le dà ragione. Contrariamente a quello che sua madre le ha sempre ripetuto, una donna può esistere anche indipendentemente dal marito, grazie alla sua intelligenza e al suo carisma personale, senza rinunciare ai suoi desideri. Durante i primi mesi di John alla Casa Bianca, Jackie soffre per il fallito sbarco a Cuba. Il fallimento del marito la addolora profondamente. Al ritorno da Parigi, Jackie si prefigge un obiettivo: ridare lustro e credito alla presidenza anche grazie ad una metamorfosi della Casa Bianca, trasformando quello che lei considerava il posto più orribile del mondo nella sede grandiosa dell'esecutivo americano. Ispirandosi alla reggia di Versailles, cambia l'arredamento, fa restaurare i pezzi antichi. Sceglie personalmente i soprammobili e i quadri di ogni stanza. Renoir, Cézanne, Matisse. Soprattutto cambia lo stile dei ricevimenti ufficiali. Ad ogni capo di Stato un'epoca. George Washington per uno, Abramo Lincoln per un altro. La Casa Bianca deve diventare lo specchio della potenza di John, e John il presidente più raffinato che l'America abbia mai avuto. Jackie si rammarica che il Pentagono spenda miliardi di dollari mentre gli Stati Uniti non hanno una vera e propria politica delle arti. In cuor suo si considera un po' una sorta di ministro ombra della cultura. Fedele all'ideale di Madame Récamier, organizza nel suo appartamento manifestazioni artistiche, balletti e concerti. Talvolta riesce persino a trascinarci il reticente consorte, al quale fa un cenno discreto con la mano quando è il momento di applaudire. Gli ospiti si chiamano Balanchine, Isaac Stern, Igor Stravinsky, Rostropovich, ma anche Leonard Bernstein o Pablo Casals. Mette in scena Shakespeare, proietta film di Truffaut, Resnais, Fellini. Forse senza rendersene conto di quanto possa suonare stravagante, Jackie spiega che gli americani, guardando la nuova Casa Bianca, devono avere la sensazione che John sia il presidente della Francia. Newport, 29 settembre 1961. Quando i consiglieri gli fanno notare che forse è stato troppo a lungo lontano da lei, John torna a trovare Jackie, come per verificare che per lei le gioie della maternità siano sempre un'occupazione a tempo pieno capace di farle dimenticare l'incostanza del marito. Ma Jackie non si fa illusioni su queste visite di circostanza. D'altronde, anche quando John è con lei, lo sente assente. Spesso, la domenica, quando va in chiesa, la folla lo spia. Nessuno ancora sospetta i suoi tradimenti. Ciò nonostante, sono tutti curiosi di sapere se il presidente farà la comunione o se ha qualcosa da farsi perdonare. Jackie teme molto uno scandalo sulla loro vita privata. Dietro ad ogni giornalista vede un voyeur, dietro ad ogni cronaca una biografia indiscreta o un articolo scandalistico. Quasi a dimostrare che non c'è nulla da nascondere, un cameraman viene incaricato di filmare le giornate del presidente. Alla fine saranno poi in tre a turno a seguirlo in continuazione. Un cinegiornale della Casa Bianca. Immagini inconsuete, grazie alle quali sappiamo come si comporta un presidente americano che nel giro di un'ora tradirà la moglie. E infatti quel giorno, un'ora dopo quelle immagini, John riparte da solo per Washington, dove ha appuntamento con Mary Meyer, con cui ha la sua relazione più lunga e che morirà un anno dopo di lui in un misterioso delitto a scopo di rapina. Tra l'ottobre del 1961 e l'agosto del 1963 i registri della Casa Bianca rivelano 15 visite di Mary Meyer, di cui 14 quando Jackie è assente. Mary Meyer, del resto, non è l'unica visitatrice del presidente e Jackie ne è perfettamente al corrente. Ma a tutto questo reagisce con il disprezzo. Non vuole parlarne, né sentirne parlare. Più di una volta i servizi segreti devono procacciare al presidente delle prostitute, ad esempio a Los Angeles nel novembre 1961, perché John Kennedy non concepisce di concludere la serata da solo. Solo, come invece era quasi sempre Jackie, di notte, di giorno, con gli agenti dei servizi segreti come compagni di sventura. Ma Jackie continua lo stesso ad aiutare John a creare il suo personaggio. Da quel viaggio a Parigi lei conferisce a tutte le sue visite ufficiali un tocco di spiritualità. Il presidente, manifestamente orgoglioso di aver sposato una donna elegante e poliglotta, lascia che la First Lady affascini le folle e i capi di Stato. Quanto a Jackie, forse perché consapevole di occupare un posto che nessuna delle amanti di John può sottrarle, ella svolge splendidamente il suo ruolo di ambasciatrice. Sono felice di poter accompagnare mio marito in Venezuela. Jackie sa che nessuno può mettere in discussione il suo status e questo privilegio inalienabile le dà la sensazione di non essere del tutto umiliata dai tradimenti di John. Al loro ritorno dall'America del Sud, poco prima del Natale 61, Joe Kennedy, il padre di John, viene colpito da un attacco apoplettico. Per una vita Joe ha ripetuto ai figli: non siate mai secondi, non serve a niente, vincete. Ora è giunto alla fine del suo cammino. Con lui scompare l'unico membro della famiglia Kennedy che capisse intimamente Jackie, che tante volte ha pagato le fatture dei suoi vestiti per evitare che John rimproverasse alla moglie quei conti troppo elevati. Jackie e il suo guardaroba. Il mio obiettivo è vestirla come una regina, afferma il sarto Oleg Cassini. Ed infatti, a riprova del successo dell'operazione, la rivista Look definisce i Kennedy la nuova famiglia reale americana. In privato Jackie è semplice e disinvolta, indossa pantaloni e pullover. Ma in pubblico è tutta un'altra storia. La storia di una donna che compra abiti in modo compulsivo, che nasconde continuamente un corpo che non ama perché non sopporta neanche le proprie mani che copre con i guanti, perché sono troppo grandi e perché alcune dita sono macchiate dalla nicotina. Nessuna sarebbe mai riuscita con altrettanto talento ad essere elegante e a mimetizzarsi nello stesso tempo. Riprendiamo la storia di Jacqueline Kennedy dopo la pubblicità. Mix 24, i gialli della storia. Siete ancora all'ascolto di Mix 24, dove stiamo raccontando la storia di Jacqueline Kennedy e dei suoi controversi rapporti col marito. Natale 1961. Jackie viene eletta dalla stampa donna dell'anno. Consapevole del mito che ha contribuito a creare e del posto che occupa nella leggenda dei Kennedy, il 13 febbraio 1962 accetta che la rete televisiva CBS visiti la sua Casa Bianca. Signora Kennedy, grazie di averci aperto le porte della sua residenza. Questa deve essere la stanza in cui lei lavora. Sì, è un solaio e una cantina insieme. È la prima stanza che attraversano gli ospiti in visita alla Casa Bianca. Gli invitati entrano ed escono da qui. Per questo deve essere gradevole. Lei è la padrona di casa. Ricevete molte persone? John, Jackie e pochi intimi guardano il programma nel piccolo salotto della Casa Bianca. Mi piace questa stanza. È piena di sole. Dalla finestra si vede la magnolia di Andrew Jackson. Il letto di Lincoln è particolarmente famoso. Tutti i presidenti l'apprezzano. Anche se continua a tradirla senza sosta, John ammira sempre di più il talento di Jackie. In fondo è lui il primo a stupirsi di essere stato scelto da una donna così intelligente, così colta, così profonda. Perché mai una donna del genere si è legata ad uno come lui? Ma è impossibile capire quale coppia formino John e Jackie se si dimentica che dei due è lei a sottovalutarsi. È che John non sa cosa sia la vanità, tanto che, anzi, è Jackie che lo spinge a prendersi più sul serio. E forse è proprio questo che lei ama in lui, quell'assenza totale di narcisismo e la dolorosa coscienza dei propri limiti. Marzo 1962, Jackie parte da sola per l'India e il Pakistan. Nel corso del viaggio fa tappa a Roma per incontrare Giovanni XXIII e forse per espiare attraverso chissà quale penitenza i peccati di John. In realtà Jackie è in missione per conto di John, che l'ha inviata in India per cercare di attenuare i dissensi tra Nehru e gli Stati Uniti. Pian piano Jackie ha acquisito un senso politico molto acuto. Il presidente dà sempre maggiore importanza ai suoi giudizi, sui diritti umani, sul Vietnam, dove la sua conoscenza del francese si rivela preziosa, ma anche sui retroscena elettorali che la divertono sempre di più. Anche perché, a differenza della cerchia del presidente, lei non è divorata da alcuna ambizione personale, il che le consente un implacabile spirito critico. Mentre Jackie visita il Taj Mahal, John Edgar Hoover, il discusso capo dell'FBI, mette in guardia John. Le sue innumerevoli conquiste amorose mettono in pericolo la presidenza. Quel 22 marzo del 1962, Hoover lo costringe a rompere con Judith Campbell, anche perché la donna è in rapporti con la mafia. L'hotel Carlyle a New York. È qui, nella sua garçonnière segreta, che John riceve attricette, giornaliste della stampa femminile amiche di Jackie e prostitute. Ed è qui che riceve Marilyn Monroe, che incontra per la prima volta proprio durante il viaggio di Jackie in India. Jackie non ha torto a paragonarsi alle eroine di Corneille, a quelle donne che tanto ammira perché capaci di affrontare il peggio senza cedere mai. Ha capito il posto riservatole dalla storia, ha un destino e nello stesso tempo una missione. Quanto al resto, Jackie cerca con tutte le sue forze di non pensarci. In assenza di Jackie, John prende un'iniziativa di cui non ignora i rischi. Dischiude la porta che protegge i suoi figli dall'avidità della stampa ed invita un fotografo alla Casa Bianca. Una trasgressione che va contro i desideri della madre. Quando Jackie, che vigila gelosamente sull'intimità della loro famiglia, lo scopre, si infuria con il marito perché non ha rispettato le regole che lei ha imposto. Strana logica quella di John. Indelicato con la moglie, negligente con i figli, imprudente con le amanti, ma timoroso con i suoi elettori. Jackie ritorna via Londra e ritrova John. Sa che in sua assenza non ha trascorso neanche una sera da solo. Quando lo ha chiamato da Bombay, Delhi o Lahore, il telefono ha sempre squillato a vuoto. La loro presenza alla funzione domenicale di Palm Beach è politicamente opportuna. Serve a mettere in chiaro le cose e a tranquillizzare l'opinione pubblica. Sia John che Jackie amano il mare. John dice sempre: andare ad Ayanisport per me significa recuperare le forze, misurare la potenza del mare. Quando mi trovo di fronte a decisioni difficili, torno sempre qui a camminare sulla spiaggia. È l'unico posto in cui riesco a riflettere e ad essere solo. Da bambina Jackie camminava ore e ore sulle spiagge di Long Island. Anche lei si è innamorata di Ayanisport. ...29 maggio 1962... John compie 45 anni. A differenza della madre, Jackie non cercherà mai di mettere sui figli contro il padre. Si sforza sempre, anzi, di tener viva la loro stima nei suoi confronti. Ma in privato la sua ironia è assai più sferzante dell'umorismo grossolano dei Kennedy. Un giorno, parlando di quello che John avrebbe potuto fare alla fine del suo mandato, gli suggerisce di diventare preside di un college femminile. Un'altra volta trova in camera un reggiseno che non le apparteneva. Sotto gli occhi di John lo afferra e con finta ingenuità si stupisce che non sia della sua taglia. Spesso si diverte davanti agli altri a chiamare il marito con il soprannome che gli ha affibbiato, Bunny, coniglio, con un'evidente allusione ai suoi appetiti sessuali. 4 agosto 1962, il suicidio di Marilyn Monroe. Una delle più famose star della storia di Hollywood è deceduta all'età di 36 anni. Marilyn Monroe è stata trovata morta nel suo letto in circostanze misteriose. Jackie commenta. È una stella che continuerà a brillare a lungo sopra di noi. Contrariamente alla leggenda, John l'ha incontrata solo 2 o 3 volte. E forse durante il viaggio in Italia che Jackie decide una volta per tutte di accettare l'evidenza, ma anche il fatto che la moglie del presidente degli Stati Uniti gode in effetti di alcuni vantaggi. Ad un'amica confessa. Che vita! Che occasioni incredibili! I personaggi importanti che incontri e che ti fanno diventare testimone della storia. I posti che non avresti mai potuto vedere e che oggi puoi ammirare a tuo piacimento. La dolce vita delle First Lady. Jackie fugge la Casa Bianca, attratta dalla vita eccitante e mondana che conduce sua sorella lì. Nel 1963, Jackie ha 33 anni e è appagata, raggiante, senza quello sguardo da animale braccato che rivolgeva spesso alle sue guardie del corpo quando la folla dei comizi le si avvicinava e la spaventava. Di John, qualcuno dice, il suo disgusto per il matrimonio è meno forte del bisogno politico di essere sposato. Ma anche Jackie trova il suo tornaconto. A John il matrimonio ha dato la rispettabilità, a Jackie ha dato la sicurezza e gli agi. Ma i loro piccoli calcoli colpiscono negativamente l'opinione pubblica e minacciano la presidenza. I pettegolezzi si moltiplicano. Per mettere a tacere le chiacchiere della stampa, John chiede alla sorella di accompagnarlo a messa. Le associazioni femminili si scatenano, condannando non tanto John per la sua infedeltà, quanto Jackie per le sue assenze troppo prolungate. Un giornalista così comincia il suo intervento. Buongiorno, signora Kennedy, ovunque lei sia. Fotografi aggressivi, prime pagine su giornali scandalistici. Ma Jackie sa che quella è la vita che l'aspetta e che dovrà pagarne il prezzo. Jackie e John si ritrovano come se niente fosse e assumono quell'atteggiamento di facciata che ormai hanno sperimentato da anni. Gli americani dei primi anni 60 non chiedono di più, sia John che Jackie sono loro debitori di un minimo di forma. I dettagli della loro vita intima è meglio portarseli nella tomba. La salute di John, intanto, non migliora. Cammina con difficoltà. Il volto è contratto dal dolore, la nuca è rigida. Spesso è sotto effetto delle anfetamine, fiaccato dagli antidolorifici, gli antispastici e gli antibiotici. Stanca, depressa, prigioniera dei suoi demoni interni, Jackie ormai segue John da lontano, lasciandolo solo il più spesso possibile, anche a Washington. In più occasioni neppure partecipa alle cerimonie ufficiali alle quali è invitata, facendosi sostituire da sua madre nel ruolo di First Lady. Ma nessuna First Lady si era mai comportata così. Ottobre 1962. Stati Uniti e Russia si scontrano duramente per i missili a Cuba. L'America teme un attacco nucleare a sorpresa su Washington. John chiama accanto a sé i figli e la moglie. Chiede a Jackie di andare nel rifugio antinucleare destinato alla famiglia del presidente, ma lei si rifiuta di lasciarlo. Per pochi giorni, di fronte alla minaccia incombente, come se la tensione del mondo li avesse risvegliati da chissà quale torpore, la coppia si rinsalda. Quando i russi fanno marcia indietro, John vuole festeggiare il successo con la moglie. Sa che Jackie è stata molto in ansia e vuole ringraziarla pubblicamente. Jackie verrà poi a sapere che il marito aveva previsto che anche la sua amante, Mary Meyer, andasse nel rifugio in cui voleva mandarla insieme ai figli. Scandali a stento tenuti nascosti, minacce di rivelazioni, litigi per un abito troppo costoso. La coppia va in pezzi. Anche gli amici più intimi evitano le cene private alla Casa Bianca. Jackie fugge da Washington per trascorrere una settimana a New York. 8 gennaio 1963. È l'ultimo anno di vita di John Kennedy ed è l'ultima iniziativa della moglie. La Gioconda negli Stati Uniti. Accettando di prestare il più celebre dipinto del mondo alla National Gallery, André Malraux precisa: il mio è un omaggio non tanto al popolo americano, quanto alla sua First Lady. È come se Jackie volesse per l'ultima volta imporre la Francia all'America. Come se l'ambiguo sorriso della Gioconda simboleggiasse l'ambivalenza dei suoi sentimenti. Come se quella figura emblematica di femminilità diventasse il suo testimone. L'osservatore neutrale della rovina della sua vita dopo la visita a Parigi. Con la storia di Jacqueline Kennedy riprendiamo dopo la viabilità. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta... Mix 24, i gialli della storia. Bentornati all'ascolto di Mix 24, stiamo raccontando la storia di Jackie Kennedy. Signor Ministro, gli Stati Uniti sono grati per questo prestito concessoci dalla Francia, paese leader da un punto di vista dell'arte. Gli americani, diligenti, accorrono numerosi. È primavera. Jackie aspetta fino all'ultimo prima di annunciare di essere incinta per la terza volta. Qualche anno prima, in seguito ad un'emorragia, aveva perso il figlio che aspettava. Per lei è un ricordo doppiamente orribile. Quando si è risvegliata dall'anestesia è stato Bobby, suo cognato, a dirle che il bambino era morto. John, a migliaia di chilometri di distanza, si era fatto vivo solo con una telefonata. E soltanto due giorni dopo, senza neanche prendere in considerazione l'idea di tornare immediatamente al suo fianco. Si era limitato a dire: quel che è successo è successo. Con la scusa della gravidanza, Jackie ha chiuso con le manifestazioni ufficiali. In seguito dirà: nessun attimo della nostra vita somiglia ad un altro. Il bene, il male, la gioia, la tragedia, l'amore, la felicità sono mescolati in quel tutto indescrivibile e unico che chiamiamo vita. Ho attraversato momenti molto difficili, ma ho anche avuto momenti di felicità. E allora sono giunta a una semplice conclusione. Non dobbiamo chiedere troppo alla vita. Forse pensa già a ciò che dirà dopo la morte di Onassis, suo futuro marito. Ho sempre vissuto attraverso gli uomini. Agosto 1963. Jackie accoglie John, che viene a trascorrere alcuni giorni di vacanza. Anche quella volta sono i figli a farla da padroni, quasi come una vittoria di suo padre su sua madre. La madre ha sempre imposto a Jackie ritegno e freddezza. C'è un modo corretto di vestirsi, camminare, parlare, anche nei momenti di relax. Ma quando Jackie e Lee andavano a trovare il padre, non esistevano più proibizioni. Potevano fare baccano in casa, correre a Central Park o mangiare gelati sulla Quinta Strada. Jackie si ricorda spesso quanto piangeva quando tornava dalla madre dopo un weekend di libertà a casa del padre. Nel pieno di una riunione alla Casa Bianca, John viene informato per telefono che Jackie è svenuta per il dolore ed è stata trasportata d'urgenza alla base aerea di Otis. Il tempo di arrivare nel primo pomeriggio e il bambino è nato. Prematuro di 6 settimane e con difficoltà respiratorie tali da indurre il cappellano a battezzarlo subito. Il presidente, livido, conosce suo figlio, al quale dà il nome di Patrick. Lo accompagna all'ospedale pediatrico di Boston, poi torna da Jackie ad Otis. L'America, informata in tempo reale del dramma che si sta consumando, assiste partecipe agli andirivieni di quel padre smarrito. A Alle 2 del mattino, mentre tenta di dormire all'ospedale dove ha deciso di passare la notte, John viene chiamato al capezzale del neonato. 2 ore dopo, Patrick Bouvier Kennedy muore. Per la prima volta, a memoria di tutti coloro che lo conoscono, John si siede e scoppia in lacrime. Con Jackie ricoverata, John si ritrova da solo con Caroline e John. Risponde alle loro domande, calma le loro paure, lenisce le loro angosce e non appena i medici autorizzano le visite li accompagna a trovare la madre. Troppo indebolita per muoversi, Jackie non può assistere né al funerale né alla sepoltura del suo bambino. Il cardinale Cushing, qualche tempo dopo il funerale, confiderà: il presidente non riusciva a staccarsi dalla piccola bara. Temevo che volesse portarla via con sé. Qualche giorno dopo, Jackie esce dall'ospedale sorretta dal marito. Tutti i parenti dei Kennedy lo confermeranno. Durante le settimane che seguono la morte di Patrick, Jackie e John sembrano vicini come non mai. Si telefonano più volte al giorno, vanno in barca insieme, si abbracciano in pubblico. Jackie trascorre la sua convalescenza ad Hyannisport. Un mese dopo la morte del figlio, John e Jackie festeggiano in mare il loro 10° anniversario di matrimonio. Jackie gli regala una medaglia di San Cristoforo, che John avrà indosso anche a Dallas, quando verrà ucciso. L'altra medaglietta che Jackie gli ha regalato il giorno del loro matrimonio è stata messa nella bara del piccolo Patrick. Di un bambino che perde i genitori si dice che è orfano, ma stranamente non esiste una parola per una madre che vede morire il figlio. Per sua disgrazia, e proprio quando le immagini lasciano pensare ad una pace ritrovata, Jackie non dovrà aspettare molto per entrare in un'altra categoria del linguaggio del lutto. Quella di vedova. Dopo soli 3 mesi dalla morte di Patrick, John verrà assassinato. Un'ultima visita ufficiale a Washington. Per qualche ora almeno, Jackie è di nuovo la First Lady. Ma quella stessa sera, con John arrabbiato perché lei si era tagliata i capelli, Jackie abbandona la serata di gala e parte per la Grecia. Per 2 settimane naviga sul Cristina, il palazzo galleggiante di Aristotele Onassis, che negli Stati Uniti è considerato un pirata di alto bordo e la cui fortuna aumenta di anno in anno. Mentre Onassis accoglie Jackie in un'orgia di lusso, la stampa si scatena contro di lei. Come sempre, quando infuriano i pettegolezzi, John, con finta disinvoltura, va a messa. Ma la verità è sotto gli occhi di tutti. Jackie ha abbandonato John. Ma anche i figli, la Casa Bianca e gli Stati Uniti. Sarà anche depressa, ma è anche ben cosciente di compromettersi, navigando sullo yacht di un armatore greco, plurinquisito per le sue noie con il fisco. Jackie ora sembra seguire una logica diversa da quella di John, diversa da quella degli interessi superiori degli Stati Uniti, mettendo così in pericolo la sua rielezione. Onassis ha 23 anni più di lei e per l'opinione pubblica risulta difficile trovarlo bello e desiderabile. Ma a Jackie piace proprio per questo, perché non potrà mai essere paragonato a John. Perché, in qualche modo, la libera dal mito dei Kennedy. E quanto a John, a proposito di Onassis, si limita ad uno strano commento. È una persona viva. Dopo l'assassinio di John, Jackie dimostrerà una fedeltà assoluta alla memoria del marito. Fino alla fine dei suoi giorni si adopererà perché John Kennedy abbia il posto che gli spetta nella storia. Perché non sia dato in pasto ai biografi, perché i posteri ricordino di lui gli aspetti migliori. E però Jackie sposa Onassis con la stessa determinazione con cui qualche anno prima è andata in crociera sul suo Panfilo. In seguito dirà: Questo matrimonio mi ha liberata dall'ossessione insopportabile che il mondo nutriva nei miei confronti. Novembre 1963, la campagna per la sua rielezione è alle porte. John insiste perché Jackie non lo lasci più solo. Le fa due richieste: pregare Onassis di evitare di recarsi negli Stati Uniti prima delle elezioni del 1964 e accompagnarlo a novembre a Dallas. Guarita dalla depressione, Jackie è trasformata. Ora forse è decisa a dare un nuovo taglio alla sua vita di First Lady. Ma John, prima di morire, non avrà il tempo di scoprirlo. Hanno collaborato i gialli della storia Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.